poi è inutile che tu magari c'è l'antenna e non ce l'ha fatto come si deve e non c'hai altre cose che ti fanno uscire bene. Ci vuole anche un apparato che magari qui le esigenze dei radioamatori sono quelle lì, avere sempre il top delle radio. No, il top delle antenne ci vuole, te l'ho detto, tu avrai una radio scassatissima, ma se non hai l'antenna hai pezzo, perché non senti, e se non senti non puoi parlare, praticamente parli con un muro, in qualche via vado. L'antenna ci vuole, l'antenna ci vuole senza ombra di dubbio, ma anche tutto il resto secondo me. Avanti Pierpaolo. Grazie. Avanti. Buonasera, ciao Gianni, ciao Pierpaolo, qui mi sembra che c'è anche Natalino e poi l'altro, comunque riprendi tu già. Io riprendo per dirti una cosa, l'altro giorno sei andato in un altro canale e sei andato a dire delle cose che a me non sono piaciute, ti dico la verità, io sono sincero parlando, non sono piaciute per niente, e non mi sono andate queste cose qua, che hai detto che il microfono ce lo dobbiamo sbattere in testa, a chi hai riferito cosa sta dicendo questo? Ah, vabbè, ce l'hai. No, con me ce l'ho. Sono entrato nel canale di dove stava Claudio, capito? Il microfono in testa a chi stava mettendo la portata. Perché poi la stai mettendo tu, allora la rispetta a te. Ma quella riferita, ci stava la portante. Se tu stavi seguendo il QSO, ci stava mettendo la portante quando parlava lui e quando parlava l'altro. No, io non sono a quelli lì. Io non mi abbasso a fare queste cose, capito? Non mi abbasso nemmeno. No, io ero nel canale normale, però stavo ascoltando dal portatile, capito? Mi ha dato un po' di fastidio questa cosa, non ho capito a chi è riferito. Mi sembrava, mi stavi facendo quasi il doppio gioco, io dico la verità. Aspetta, già le allineate. Se ti dà fastidio una cosa, vuol dire la difetta a te. Non ti può dare una cosa, ti dà fastidio una cosa che non ti tocca, non ha senso. Era riferita, ci sta mettendo la portante, ci sta disturbando, tutto lì. Era ovvio che ci ha ascoltato bene. No, io te l'ho chiesto perché l'ho sentito a metà, perché ho sentito la porta, col microfono se lo devo tirare in testa. E ho detto, con chi ce l'ha? Siccome c'è un microfono amplificato, ho detto, qua si sta disturbando, però me lo può dire anche in diversa maniera. Ma che cazzo disturbi già? Se siamo a 6 km e sei 30 canali più sotto, cosa disturbi? E poi se disturbarmi, basta che te lo dico, al limite se disturbi, ma era riferito esclusivamente alla portante che ci stavano mettendo, sia quando parlavo io sia quando parlavo gli altri. No, non ero io comunque. No. Vabbè, ho voluto solo chiarire la cosa, non c'è problema. E poi non l'hai tu perché sicuramente non l'hai tu, perché mi copriva Claudio, e qua Claudio che cazzo vuoi che ricopra, solo chi sta in zona, ma neanche, capito? E poi lo mettevano quando parlava anche un'altra persona che è stata dopo, ma era riferito solo a chi metteva la portata, basta, e cazzo era riferito. E poi tu, c'è una stazioncina, cosa puoi disturbare? Non arrivi neanche a Plattamona. Per quanto mi riguarda è sempre migliore della tua. Allora, capito, cosa ti disturbi? Capisci come sono fatte e cosa puoi disturbare? Tu non disturbi, ma così dimmi sotto casa mia o sotto casa degli altri. Capisci sempre un portatile, con un'antenna cazzo sul terrazzino. Beh, hai ragione, sì, hai ragione. Ma sei parlato di te o di me? Cazzo già, quindi ascolta con la baracchino, no? Ascolta con i portatilini e poi ti porta in inganno, fai girare gli altri adesso. Va. Lasciamo perdere, forse è meglio, va. Che comunque fate un doppio gioco ugualmente, perché prima fai da una parte, poi parli male di uno, poi parli male dell'altro, lascia perdere. Avanti gli altri, Roberto, riprende. Aspetta, chi è questo? Che non lo sento io. Scherzo. di Marco, ma hai bevuto o te c'è una pizzeria? Ma che è tu dico? Ma che fai? Ma che cazzo? Non capisco questo tuo discorso. Io vado a fare dove mi piace. Perché non c'è una persona che volevo chiedere. Io è tu lì dove vado, dove mi piace. Per tutto qua non c'è nessuno. Non lo sento. Si può? Guardate lui, capo, ciao a tutti, per poco uno c'è, da poco fa, per pace, dimmi, visto non c'era quel pettorale che ho detto, è introvabile, mannaggia, è introvabile, addirittura, capo, c'è stato anche da Massimiliano, non da Massimiliano, da Galvino, il cognato di Massimiliano, neanche lui ne ha, ma sono introvabili quegli integrati. Nulla. Scusi, è uno simile. Detto, magari uno che si può adattare. Ma è una faccia di cazzo, guarda, scusate il termine. Quello giovane, però. Si fa delle battutine di meno molte volte, cioè, appena un cazzo e ti ha di qualche cosa a faccia, ma veramente. Cioè, ti ho fatto una semplice domanda, c'è qualcuno magari che si può adattare. E se non pensi te li avrei venduti. A te di rispondisso. Ma proprio imbecille, cazzo, vita. Mi sono via di bici come tu e su... Cazzo, mamma mia. Cacchè di iniziato, ero anche con la terra. Cazzo, a me sei sulle scatole, per non dire altro, guarda, che no. Veramente... Cioè, proprio ti risponde... Di cazzo, di merda. È come lo vuoi dire. Cioè, dimmi, non ce n'è, basta. Io guardo solo una domanda e basta, non è che... se non avessi non li avrei venduti. Ah, va, ma stati vai. Ma lui c'è andato imbecille. Ci rimane imbecille, paro. Ma lì è proprio, non lo so, le volte fa certe sparate che non... Non lo so, non è mai cosa va in capo. Sai che me l'ha fottuto da me, sennò già tu si va attaccato. È proprio... Cioè, cosa gli costa? Cioè, una faccia di merda, guarda, che non mi viene a dito. Dice che è introvabile. Io volevo controllare su internet, mi dispiace cazzo, cioè se ricorda 5 euro si può anche trovare. E poi ho detto quello è il condensatore 22 microfarad, una cosa del genere. E beh, non si trova neanche quello. Sì, il condensatore sì, ma è l'integrato, è piccolino. L'integrato, boh, è bisogna vedere, vabbè. Che tipo di integratore è introvabile così. Beh, va. Se capita magari. La faccio vedere, sai che lo metto qua, la faccio vedere così se ci va a fare a recuperarlo tu, ovviamente pagando. Ora faccio una cosa, domani se c'è quando mi dai la sigla di questo integrato a vedere che di che cosa si tratta. Mi ha fatto questa parola qua, dice che questi integrati del digitale terrestre sono introvabili. Quello è vero, alcuni integrati sono improbabili. Secondo che cosa è probabile? Voglio vedere però, perché c'è un coso dove si trova. Adesso non mi viene in mente, ma me l'hanno detto. Non lo farò dire dove si trovano questi... Che è l'unico ritrovato in Italia che ce l'ha di pratica che li fanno, là. Luca. Veramente è forte, che è un po' incomprensibile. Sì, comunque la sigla è un casino, perché ti spiego, quando ha scoppiato un integrato lì, mi sono trovato il petto dentro, ci sono perso due volte, tre volte, sono riuscito a rimediarlo, allora è collato con l'attac. Sì, vedi, poi ci vuole la lente, io lente non ne ho. E c'è anche lui, c'è anche lui. Luca, lui ha? E ma te ne cosa? Guarda, se sei fortunato, ce n'è uno, mi ha dato un amico nuovo fiammante, c'è una settimana di vita, c'è un problema dell'alimentazione, accende, però cioè si sta accendendo la luce o qualcosa, se non guarda quello lì, forse è telesistema, se non c'è la bando, te lo guardi, se va bene, te lo smonti da lì. Integrato va bene, c'è telesistema, sì. esiste, non esiste, non sono sicuro, però a memoria mi sembra sia telesista. Fa una cosa, fa uno squillo, così mi fa sapere. Ma mi ha detto, sono capitone Gravino, il collega di Massimiliano, che più o meno gli interessi sono tutti uguali. Molte volte capita, infatti sono venuti che tratti vari i tablet, diciamo la carcassa, di un caso quel circuito è preciso per molti, se sei fortunato, infatti è quello lì. Però volevo dire, chi era quello che stava parlando prima? Chi era? Tu, a parte che sta uscendo malissimo per passare, sei tutto distorto. Cosa hai detto? Perché mi faccio il timpano, e così ha capito due ieri, non riuscivo a comprenderlo, mi stava spaccando i timpani, troppo forte la radio. Signori, io vi saluto e me ne vado a letto, ci sentiamo alle prossime, che è venuta l'ora dei paverini, cara gara e cara gara. Io sto già prendendo il tutto qua. Buonanotte da Torino. Maria, dimmi. Stamattina stavo parlando con uno, non ti faccio il cognome, però ti conosce, che lavora dove sei tu, l'hanno preso per 4 mesi anche lui, dice, dopo tutto l'ho dato la cuffia, ad esempio, che dice da entrare. Stavo parlando, ma poteva conoscere la Natalina, ha fatto sì, l'autista, sì, già lo conosco. E cosa fa lui? Alberto Urbano, però non so di cosa, forse Giardini fa cosa del genere. Il cognome inizia con Via. E ho mai dato. Bisogna vedere chi è. Vabbè, dai, già me lo dirai in un altro momento, dov'è? Ah, una Celso o Celestina. Ma bisogna vedere cosa fa, capì? Questo è Giardini, mi ha detto, perché appena ha detto, allora conosci la Cali, ha detto sì, allora è una cosa, autista, ho fatto sì, tu lo sei autista. La comunicana è questo di Vizia. Comunque ciao Natalia, buonanotte, dai, anch'io sono un po' stanco, mi sa che forse è stato buono, dai, vi saluto anche io, dai, che sono un po' stanchino. Ciao Natalino, buon tutto, buona giornata per domani, ciao Falchetta, anche a te, buon tutto, per Paolo, Antonio, sperando che sia ancora vivo, ok, e poi chi c'era, non so se c'è ancora Gianni e tutti gli amici eventuali. Ciao ciao, buon resto da parte mia. Aspetta, uno per volta, avanti Natalino prima. Ho detto, saluti circolari a tutti, quelle qui anche per me. Ciao Roberto, ci sentiamo alle prossime, Carucci. Ciao Natalino, ciao anche a Roberto. Ciao Natalino, ciao Roberto, ce la riascoltiamo alle prossime. Con la speranza che Roberto mi ascolti, cambia. Così almeno sono con te. Ciao Natalino, buonanotte, ciao Roberto, buonanotte, ciao. Beh, sembrava una tappa fa, che fa, come te la tromba? Non è possibile, quella è anche tromba di culo. No, per quella più tardi. Ciao a tutti, dai, mi ha preso la risa. Ciao, ciao, dai, ciao, mi mangio due fette di mortadella e vedi com'è la tromba. Ma come tu lo sai, il gruppo della mortadella? Ma che, mi ha insegnato il tuo maestro. Vabbè, dai, ciao a tutti, buonanotte. Ciao, ciao, buonanotte, avanti Gianni, cambia. E là io mi sono andato a mangiare per fare il pane l'otto, da chi mi ha chiamato. Chiara, chiara. Vabbè, riprendete voi là che mangio un boccone per magari riprendere. Ciao, ciao. Non puoi fare così, dai. Stato di me una mangiava, io. Eravamo mangiato prima. Dai, non lascio andare, io. Sai che non è cosa molto, molto triste. No, non puoi fare queste cose, andatene a mangiare, dai. Rimasto tre. Dio mio. Avanti chi è rimasto sul canale 19 Alfa. Cambia. Stazione Falchetto che fa chiamata, C'è Falchetto già. Paga. Falchetto, presa la luce in basso. Sì, non si può. Adesso è mattino, sono adesso. Ma come lo senti per qua? Io sento bassissimo, non lo so perché. Ma non è che si è attenuato, già. Se si è attenuato è logico. No, non sono attenuato. Eppure Falchetto ha riattaccato l'antenna. Vedi, vedi, capagata. Falchetto, attacca l'antenna che hai sul tetto. Sì, attacca. fatto la tele, io sono detto, Allora attacca le teste. Allora come attacchiamo? Faccio il cambio. Gianni, ma sempre qua, sono 19 alfa entri. Gianni, sono 19 alfa entri. Eia. Allora dobbiamo rimanere qua sul 19 alfa. Chiaro. Va bene, rimaniamo qua allora. Ciao, ciao. Buonasera. Non mi direi che veramente c'hai il coraggio di mangiare. Oh, rimango col buco nel mondo. Dai, aiuto, ma tu pare che io sono l'ora di andare a mangiare. Noi mangiamo sempre a quest'ora. Sono io che mangio un po' prima a volte, ma noi mangiamo sempre a quest'ora. Asco, roba buona ha fatto a mangiare. Non lo so, non siamo mai entrati in cucina. Allora fa una cosa, vai a chiedere dove andare a mangiare lì. Va bene, ok. Per il momento è chiuso. No, cucinato, quindi la ghita e la muglia. Non gioco, si vedo il lei. Adesso gli vuole tu. A me non mi piace, è la verità. No, li ho visti fuori per il ragnolo, dove ce ne deve fare domani, dai. Il ragnolo è al suo cuore, ma il no che mi ha ricordato di me, anche da. Sì, se non sarà la dirigetta di chissà, come si chiama, chissà, la gulura. Chissà gulura che va in zampette, come si chiama, esistela, ti dico. Se non sia la gatta, a chi lo chiede, tra che non la becco, non so, è sparita. Ah, vero. Non so se il gatto è quello che mi ha dato a mangiare, blu. Tu è il ragno, magari ti ti verrà stato di più da mangiare, ma è del ragno. Da, è ragna, la figlia è ragna, ya. Beh, Michelina, non puoi dire che è grossa, no? Non è, perché è un tipo di gatto piccolo, ma non è che... È quello triccia triccia, ma ora si è poco triccia. Qua io ti dico invece, ho un pezzettino di petto di pollo, ma un angolino, non l'ha mangiato manco il tutto. Se aveva stato la ghietta di Pierpaolo, ci aveva mangiato un boccone. Se aveva stato un pollo, si sbarra tutto, ma te, se io mi sentivo, cazzo, se aveva un pollo, ma non la so più, Ma me lo se ne andava, Magna? Ha pensato di mi sentire, sono della Cirelli. Ma dai, ci sentiamo dopo, lascia anche lei. Ah bene, buona cena, ragazzi. E tu ci hai mangiato al qualchetto? Certo. Oh, che spari quel qualchetto? Qualchetto. Chi è che mi chiama? Chi è che mi chiama? Sei sparito, bro? Sì, a me per un bicchierino. Ecco, a prendere la medicina sei andato. Sì, anche. Sì, perché è bella. Non mi metto a fare guarda adesso, Sempre 5 Vado. Siamo a casa. Che fa? Paolo? alleluia. Ma io qua già c'è riscaldamenti, non mi ho freddo. Tutto riscaldato bene qua. Noi, negativo questa parte, negativo, buia, mi pare di tanto. E con il suo tuo aria. Ah, non vedi di sì, già. Ah? Non vedi di sì. Perché drome? Perché stenti a... a rispondere? L'ascolto, poi lascio il piatto, perché se c'è qualcuno che può rispondere. Quelle dove piacciono neanche a me. Boyar. Cazzo, come si è appoggiata il mondo, come si è arrabbiato l'ultimo consiglio, è corrido immediatamente. E non la tiene, come faccio? Prova a mettere la mezza una mollica di pane e così la usci. Cioè, se di quelle permesse ti lascio togliere in acqua, cioè, ti mostro. Ah, e appunto io te l'ho chiesto la cosa e lascio in acqua, ti metto no, una fratta che pivia. E lui tu mi hai detto da prendere con l'acqua, no, togliere in acqua, no, hai fatto mettere fermecenti, ma è la qualsiasi cosa, mettere fermecente, ho detto da prendere con l'acqua, io ho detto fermecente, non so come intendere tu da prendere con l'acqua, da ingoiare e poi bere l'acqua oppure fermecente, io ti rispondo, è fermecente. Ascolta, ma lui ha avuto sempre il problema a ingoiare oppure adesso che c'ha una cosa e non ce la fa? C'è la febbre, lui quando c'ha febbre è sempre così. Vabbè, anche Marco l'altro giorno era un po' messo male, c'ha cioè, gli occhi languidi, poverino, gli occhi rossi rossi languidi. Ma lui c'ha dolori a tutte le ossa, è corporaia sicuramente, quella è ieri notte mi dirà. Gli sciogliate il distributore automatico sicuramente da questi dopo da me. Sicuramente vediamo perché ha preso un colpo d'aria. A me grazie a Dio non mi ha fatto nulla, forse perché c'è qualche golfo a collo alto, in più giubbotto, sempre a collo alto, quindi magari mi ha tappato di più. Colpo d'aria quello è. Stamattina già, non ce la facciamo neanche a parlare, io sono uscito da casa con la febbre stamattina. Perché sei andato? Sono andato mezza giornata, sono dovuto andare per forza perché non c'era nessuno, ero da solo, poi a mezzogiorno ne siamo andati. È tornato lui? Sì, è tornato l'urgenza. Ma non ho capito perché sta già sta facendo così. Sei di nuovo sciato. La radio come ce l'hai, Make It? Il Make It è come sempre, no? Adesso addirittura ha scaricato con questo prrrrrrr. Costano moltissimo, già si possono prendere. Allora, quelli in matita non ci facevano mai così, ma che ti sottigliano una volta, quando li tocchi con la plastica diventa tutta un'altra molto molto a casa, non riesci più. Lo so, si scivola e si gira tutto qua. Adesso secondo come no, adesso si sta muovendo anche questo. Ma chi come ti tocchi con il saldatore che hanno saldato, già si vanno di moto, capito? Quindi una volta che li muovi da voi non ne serve di più. Infatti, basta che va a risaldare si scioglie di tutto. E si muovono. Non ne hai quelli già pronti di corso? Io sto usando quelli che vanno bene. Ne dicono tante eppure a me mi vanno bene, non mi hanno mai detto problemi. Adesso io quelli li uso per gli strumenti. E anche io faccio così. No, io li sto usando anche dallo strumento a baracchino. No, lo strumento a baracchino, quelli che faccio io. Ma è perché, cioè, poi, è perché mi serve lungo, capito? Invece questi qua, stato lungo, 40, 50, capito? No, ce ne sono tutti i miei, ce ne sono 40, 120 e 45. Tutta la possibilità. Sono andato, c'era, no, no. Sono andato, l'unico posto dove sono rimasto è la GBC, soltanto da adesso non me lo ricordo, questi qua sono la 30. Solo la 30. Ma come tirassi da chiesto un microfono per papà? L'altra volta ha detto che non veniva via, perché non faccio qua da te, la GBC, già te l'ho dimostrato che c'è. No, ma quello non ho chiesto a Torino, me. Ma se uno come te, no? Mamma, l'anima di riporta di casa. Tu. Ma che ti sei? Stavo ascoltando cosa stavo dicendo, sento l'anima di mortacci tua. Questo peggiore, no. Non va neanche questo, ne ho tanti, ma... Aspetta, ci metto, tolgo uno dallo strumento, non so che poi lo strumento, no? Non ci arriva, devo spostarlo. Parlate. Chi c'è? Falchetto. Falchetto. Il falchetto non ha gana. Ma gana falchetto. Nulla. Dai, io vi saluto, dai. Io siete la barca, saluto per Paolo, la santa buonanotte, saluto a tutti, saluto anche a te Gianni, dai, che mi si stanno calando le serrande, tutte le migliori, dai. Ciao ciao, buonanotte. Buonanotte, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao a te, ciao, buonanotte. Nulla. Abbastanza sveglio. Mi sento spento però, può darsi di sì. No, può darsi, non lo sai tu. Se sei spento o sei acceso? No, sono spento. Ah, sei spento. Vabbè, così. Sono spento così. Che appa. E quindi domani per farlo ci farlo. E mica recupera la notte Antonio, no? Oh, infatti, Antonio sta male, ma il dottore poi è venuto. Capo. Me l'ha detto. E non vorrei che mi fai tutte cose. Ti prendere qualche po' di tacchi più lenti, se sarà la febbre, così. E allora, ti solite tutte cose. Ma guardiamo chi ha chiamato. No, il medico. Ci è venuto. Come hanno fatto? Che si staccano sempre il telefono per non chiamare. Adesso ho fatto molto passaggio. No. Stacca un altro apparato per qua. Ma se questo va non va, lo sai il solito che... No, volevo toccare ogni andata, se c'è no, cazzo, lampato si può. Dal PL. Dal PL. Sì, vecchia, vabbè, no, ma vuoi mano? No. Ma è tocca comprare nuovi, là. Vagata. Macchinette. Non so se ne ho qualcosa, dovrei avere due o tre io, che mi ricordo io. Adesso se sto meglio che posso uscire domani, mi vuole come lo mollo. Se posso uscire domani provo a scendere giù a prendere niente da quello lì a vedere, ma ho i miei dubbi. Sì, quello lì sicuramente ce li ha perché ha roba se sta fendo da un mediano. Ci proviamo da uno o dall'altro, la mettiamo in dono, che come dice il mondo, è quella la massa, vabbè, e fa lì, è più bello. Pagato. Sarà allucinante, però la fine delle altre due, le ho già cambiato, questo che ci ho messo è il terzo, è sempre da quella parte lì, Cazzo, ma questi poi sono proprio schifosi, ma schifosi al massimo, Cioè, come ti devo fare io con questo cazzo di piede, non l'ho preso, proprio sono di quelli che manco ai cani. Come devi fare per farlo? Non bisogna comprarti chi su quella plastica bianca, io chi su quella plastica marro, la bacchiriglia. Quelli sono i migliori che ci sono. Prima ci sono gli anfi, no? Poi ci sono quelle bacchiriglie che vanno molto bene. Poi ci sono anche quelli d'argento, se proprio vuoi fare una cosa grande. Ma ci avevo quelle in bacchiriglie. Soltanto che c'erano un paio di spettatori di quelle in bacchiriglie, belli. Se non che uno l'ho dato, poi penso ne avevo uno qua e mi si è spaccato, veramente faccio molto un prelievo innanzi, e mi l'ho spaccato il coso proprio, anche quando volevo i grossi, la zurra. Poi uno l'ho messo in moto, girando lo sportello, a caso l'ho schiacciato lì. E sono andato a finire tutti così quelli in macchina, e sono io, neanche più uno. Posso parlare io se ce l'ho qualcuno, però. Ma non lo so, non me lo ricordo bene, mi pare che un po' le avevo comprata. Ma se li trovo, li cambio tutti quanti in macchina. Se li cambiano tutti quanti, non se ne vanno da più, anche me lo ho rompito, veramente il cazzo di chissà. È modesta, guarda, poi ce li fanno pagare. Beh, la magia, la faccio male, perché la cosa dura è 31, un cazzo che decide. Le biliate, la CBC? Due li ho presi alla CBC e due li ho presi anche alla Antonella, ma l'ho preso, l'ho preso, Ma io quelli che ho preso da Antonello c'era il riduttore che non avvitava, erano tutti difettosi, lo sai. Sì, c'era Antonello, non ne ho preso due, non andavo a avvitare, arrivavo a metà e non andavo più, poi a vedere, era finita a preso, poi era rovinata, era. E ci ho a dire, ma questa era rovinata più. Non ha vinto a riduttore. E ci avevo una busta, una bustina siamo fatti, una decina. Erano tutti così, e ma allora che ci ha trovato tutti quanti io. No, vabbè, no, ridammi, là ti do un'altra cosa perché non viene altro. E c'erano tutti quanti così. Poi, dopo una decina di giorni li ha portati, li ho presi. Per carità, come va a saldare ci sciolgono. Io. Ma perché non li ordino in macchina direttamente? E gli ho detto, fate arrivare. Magari mi ha detto, non le fanno più. No, io. Invece non è vero. Non è vero perché io so che qua ci sono. Che interessi sono. E allora, sono loro che non ne ordinano. No, sono loro che non ne vogliono ordinare perché costano di più. Magari hanno paura che non sia mercato. Invece quelli che costano meno, magari li comprano di più. Ehi, via. Io dico questo, porta i buoni, se li pago, perché non è che non li stai pagando neanche quelli sono per i chiari, quindi no, e non si pagano neanche. 50 centesimi. Porta lì qua, porta lì buoni, te li pago e buonanotte. Non è che gli sto dicendo la mia grazie, non ti ripago, è il gatto giusto, ti ripago. Ma lui ce l'aveva, ce l'aveva anche gli altri, no? Mi sa che gli ho chiesto di fare la cortesia, ci vuoi se me ne prendi a caglia, adesso che ci ho pensato. Mi pare che lui prendeva anche gli altri, non l'Antonetto, qui dava la bustina, me lo ricordo. Sì, ma è senza gli altri, non lo da ecco. Che poi non dipende da lui, gli ordini mi fanno le fricche. Era quello per voi, no? Vabbè. Era quello per voi, però le ordinavano le fricche, però come è così che cioè, se la porti la roba buona perché la prende in conto. No, ma adesso ci ho pensato, adesso lo dico, oggi di bloccato per fare questa cortesia, appena che capita lì, se me ne prende un CO7. No, per quel rifornitore riprendono perché? Sì, sì, spero che riprendano, prendi tutto, vabbè. Lo tiri appena e torno da. Poi se non c'è quello che c'è quello a Cagliari che vende tutta la roba. Magari. Dico se mi fa questa, questa cortesia. L'anima di morte. Allora, sono pochi e piccola. No. Ci sta frodiando lei. Allora, è piccola in via, va. Fai così. Roberto, se di non ho per le stazioni di V. Per far stare in bene.